1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Avanti, avanti alle 7:17 minuti, cari ascoltatori, ormai la 75esima settimana decisiva per la riforma elettorale, l'abolizione delle province è iniziata ufficialmente. E chissà, chissà se succederà qualcosa. Noi confidiamo, siamo confidenti, come si suol dire. Allora, oggi parleremo di quello che sta succedendo, la riforma del lavoro, il TFR in busta paga con Renzi che rilancia. Voglio mettere il TFR in busta paga a febbraio in un unico stipendio, come se fosse una quattordicesima. E poi metterà la fiducia sulla riforma del lavoro all'interno del Parlamento e quindi, per placare un po' le divisioni all'interno del PD, queste tematiche sono le tematiche politiche sul piatto. Discuteremo di questo, avremo ospite il nostro Oscar Giannino, così come avremo ospite il responsabile lavoro di SEL, l'onorevole Airaudo, questo dalle 8:15. Intanto però andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo lunedì 6 ottobre i titoli, cominciamo da quelli come al solito, l'apertura del Sole 24 Ore è questa: crisi e credit crunch spingono i reati fiscali. La rilevazione del Sole 24 Ore sulle segnalazioni pervenute alle procure è proprio questa: c'è un boom di compensazioni indebite di mancati pagamenti di IVA. Mentre il Corriere della Sera apre sul tema su cui ci dedichiamo alle 8:15, lavoro, scontro sul voto di fiducia, il governo vuole accelerare sulla legge. Anche per Repubblica, il piano del governo TFR in busta paga solo a chi lo chiede. Mentre il Secolo XIX, Renzi brucia i tempi su articolo 18 e TFR. Anche La Stampa, TFR, Renzi insiste e tratta. Mentre per il Messaggero, casa, tornano gli scontri fiscali, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Giornale apre così: casa Renzi, primo divorzio, i guai a Palazzo Chigi, il fedelissimo Matteo Richetti ieri, intervenendo la Lucia Annunziata, prende le distanze dal Premier dicendo non è così che si governa. Ma io voglio iniziare dalla segnalazione di alcuni articoli come questo sulla RAI che troviamo sul Messaggero. Mentre il governo parla di riforma del lavoro, di TFR, c'è sotto sotto un movimento per cercare di cambiare la governance della RAI, o meglio il metodo in cui si sceglie la governance della RAI, vale a dire il consiglio d'amministrazione. È allo studio, sul tavolo del sottosegretario allo sviluppo Antonello Giacomelli, che si occupa di queste tematiche legate alla RAI, questa ipotesi: rivoluzione al vertice CDA scelto dalle authority. L'obiettivo è quello di svincolare la scelta dei membri del consiglio di amministrazione dalle scelte politiche, dalle appartenenze politiche. E allora scrive Claudio Marincola, pagina 7 del Messaggero: il piano articolato prenderà forma nei prossimi giorni, destinato a cambiare la RAI dalla A alla Z, e si tradurrà in un DDL, cioè in un disegno di legge, che il presidente del Consiglio Renzi vorrebbe votare già entro la fine dell'anno. Informazione, canone, governance, stato giuridico, cambia tutto. La nuova RAI sarà controllata al 100% dal Tesoro, ma sganciata da lacci e lacciuoli tipici delle partecipate pubbliche per muoversi sul mercato. Nuove regole, nuova gestione, nuovo modello di servizio. Sullo sfondo c'è il tormentone che si declina tutte le volte: come liberare la RAI dall'ingerenza della politica. La risposta è sul tavolo del sottosegretario allo sviluppo Giacomelli, che sta lavorando al piano a stretto contatto col suo omologo all'editoria Luca Lotti, e l'obiettivo è concludere l'iter prima del rinnovo della convenzione che scadrà nel 2016, si vorrebbe anticiparla di un anno. L'idea è proprio questa, per esempio la scelta delle nomine del consiglio d'amministrazione, sceglierle all'interno delle scelte dalle authority. Il presidente e l'amministratore delegati scelti in una rosa di candidati proposti da organismi neutri. negli incontri, nei seminari che ci sono stati, si è fatto finora il nome della conferenza dei rettori delle università italiane, dell'AGCOM, della SIAE. Non è detto però che restino questi. Il consiglio di indirizzo, in questo modo si fa osservare in ambienti PD, non sarebbe più diretta espressione della politica. Questo è ciò a cui sta studiando, a cui si sta concentrando il sottosegretario Giacomelli, e è la linea di Renzi. Staremo a vedere se si riuscirà a cambiare la RAI. È da quando siamo nati che si sente svincolarla dalla politica. Bisogna vedere che succederà. Che succede invece all'interno del Movimento 5 Stelle? È ormai accertata che la frattura tra il Movimento e il sindaco di Parma, Pizzarotti, è sempre più ampia. Questo almeno a raccontare, a leggere i giornali, perché Pizzarotti non sarà invitato a parlare sul palco alla kermesse al Circo Massimo. Lui comunque, in una breve intervista al Messaggero, una brevissima chiacchierata, dice: io mi presento. Stefania Piras lo chiama: io a Roma vado lo stesso, vogliono un profilo basso da parte mia, forse intendono l'altezza. Lo so, è di nuovo polemica, dice Pizzarotti, ma io aspetto il 10 ottobre, ci vedremo lì, nessun profilo basso da parte mia. Certo che vado al Circo Massimo, cerco il confronto. E che succederà? Come sarà a Roma? Chiede il Messaggero. Non lo so, io vado a Roma, di sicuro ora c'è questo. Ma cosa è successo? Chiede la cronista del Messaggero. Cosa è successo tra lei e il Movimento 5 Stelle? Beh, non dovete chiederlo a me. Insomma, risposte molto secche da parte di Pizzarotti. Il titolo del Messaggero è: Grillo espelle Pizzarotti dal raduno del Movimento 5 Stelle. In realtà non lo espelle, perché parteciperà, però non parlerà dal palco. Palco vietato a Pizzarotti al Circo Massimo. Lui risponde: tra la gente è meglio. Questo è il titolo di Repubblica. E poi se fioriscono le interpretazioni. Guardate La Stampa con Giuseppe Salvaggiulo a pagina 5. Ormai c'è un piano del PD per Pizzarotti. Come un piano del PD? Eccolo qua. Il mandato di Pizzarotti scade nel 2017. C'è un corteggiamento del PD che prosegue. L'obiettivo del PD è questo. Dobbiamo degrillizzarlo. Inserire questo neologismo nel prossimo vocabolario. Degrillizzare, cioè, non so, fare il lavaggio del cervello per togliere Grillo dalla testa di Pizzarotti. Devono degrillizzarlo. Questo è l'obiettivo del PD per acquisire a sé Pizzarotti. Mentre in retroscena più interessante forse lo scrive il Fatto Quotidiano, che su quello che succede attorno al Movimento 5 Stelle è sempre ben informato. Emiliano Liuzzi a pagina 3 del Fatto scrive, il titolo è questo: Pizzarotti giù dal palco, Beppe così ci sgretola. Questo è il testo che Pizzarotti ha concretizzato in SMS che, scrive il Fatto Quotidiano, il sindaco di Parma manda a onorevoli del Movimento 5 Stelle. Questo è il testo che manda. Se non fate voi se non lo fate voi, cioè di prendere le distanze dai vertici, il movimento si sgretolerà e voi sarete i primi responsabili. Ecco perché, scrive il Fatto Quotidiano, Casaleggio si è staccato da Pizzarotti, Casaleggio e Grillo, perché lui sta in qualche modo, secondo loro, sta tramando, no? Staccatevi da Beppe Grillo, scrive ad alcuni onorevoli del Movimento 5 Stelle, altrimenti lui sgretolerà il movimento. E allora ecco che viene attribuito a Casaleggio questa frase: Pizzarotti noi lo escludiamo, è lui che si farà fuori da solo. Vabbè, bel clima tra il Movimento 5 Stelle e Pizzarotti, staremo a vedere come va la questione del Circo Massimo. Mentre io salto al Corriere della Sera, perché questo articolo vince di netto il premio Mani sul volante. L'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata è Simona Ravizza, che racconta tutti gli sprechi in ospedale. Pagina 9, è uno studio dell'Università Bicocca di Milano insieme al fondatore Giancarlo Cesani e al ricercatore Achille Lanzarini, che ha messo in comparazione tutte le spese degli ospedali italiani. Chissà se il Cardarelli di Napoli è davvero più pulito del Sant'Orsola di Bologna. Le camere di pazienti, bagni, corridoi dovrebbero essere impeccabili. Questo perché i costi della pulizia dell'ospedale di Napoli sono più del doppio rispetto a quelli emiliani e rappresentano un record a livello nazionale. Si spendono 17.583 euro per posto letto a Napoli contro i 6.518 del Sant'Orsola. La media invece è 7.957 euro. Ripeto, a Napoli 17.000. Sarà pulitissimo l'ospedale Cardarelli, eh? Oppure magari al Delellis di Catanzaro salvano i malati per telefono, visto che la spesa per le utenze telefoniche è il triplo degli altri ospedali italiani. E com'è possibile che tra il Careggi di Firenze e il Niguarda di Milano, a parità di dimensioni, ci sia una differenza 10 volte di costi per l'elettricità? 6.737 euro a Firenze, 604 al Niguarda, questo per posto letto. Ecco, queste sono le domande che stanno alla base anche dell'arrabbiatura e però della fotografia sulle possibili sprechi e inefficienze di questa ricerca che si chiede di quanti soldi ha bisogno ogni anno un ospedale per sopravvivere, per posto letto. Eccolo qua, c'è tutta la classifica, i costi di produzione, quanto costa il personale sanitario, quanto costa la pulizia. Trovate tutto sul Corriere della Sera, questa interessante ricerca spiegata da Simona Ravizza a pagina 9. Prima della pubblicità, sappiate che se ce l'avete con il rigore di Angela Merkel, l'austerità di Berlino e magari volete avere degli argomenti in più per attaccare Frau Merkel, beh, utilizzate quelli che Helmut Kohl, suo predecessore, di qualche anno fa, ha utilizzato in un'intervista a Der Spiegel. Come racconta oggi il giornale, Helmut Kohl racconta: ma se Angela Merkel non sa neanche usare forchetta e coltello. Sono stati varie le volte in cui non riusciva neanche a mangiare per bene con la forchetta e il coltello, tutta scomposta. E io, racconta Helmut Kohl, alle scene di Stato più volte ho dovuto richiamarla all'ordine. Questa cavernicola. Ecco, avete un argomento in più contro Angela Merkel. Una che non sa neanche tenere la forchetta in mano. Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:33 minuti c'è Matteo Renzi, il premier, che su articolo 18 TFR contatto e trattativa con i sindacati va avanti e si appresta a vivere una settimana, lo dico, decisiva. Sta di fatto che soprattutto sul TFR molti giornali puntano l'apertura, perché Renzi, come racconta Marco Galluzzo a pagina 2 del Corriere della Sera, va avanti su questi temi, Jobs Act e TFR. Renzi va avanti, la decisione sembra tratta, scrive Galluzzo, e a meno di ripensamenti Renzi è pronto a mettere la fiducia sul provvedimento di delega sul lavoro. Resterebbe da decidere se lasciare il testo base così com'è oppure presentare un emendamento che in queste ore viene discusso con la minoranza interna del PD e col partito di Angelino Alfano, cioè il nuovo centrodestra. Dunque punta alla fiducia, questo è il primo punto, ma sulla riforma del lavoro, mentre è il TFR il tema che continua a fare discutere. Sentite cosa scrive Roberto Mania su Repubblica a pagina 2. TFR volontario in busta paga, doppio stipendio a febbraio. Ecco il piano del governo per convincere le imprese. Sapete che due giorni fa il presidente di Confindustria Squinzi ha detto no al TFR in busta paga. Eccolo però il piano per cercare di convincerle, scrive Repubblica. Doppio stipendio a febbraio. Per i lavoratori che lo chiederanno potrà essere questo l'effetto dell'operazione anticipo TFR. Nonostante l'opposizione delle imprese, il governo ha deciso di provarci. Il progetto non è affatto abbandonato e a Palazzo Chigi ci stanno lavorando. C'è già una bozza di proposta di 8 cartelle. Mi piacerebbe che dal prossimo anno i soldi del TFR andassero subito in busta paga, ancora ieri ha ribadito Renzi. L'idea è questa. La volontarietà è il perno della proposta, cioè ciascun lavoratore, settore privato, di quello pubblico, deciderà se ricevere l'anticipo del TFR maturato nell'anno precedente. Dunque, in questo piano di Repubblica vengono inclusi anche i lavoratori pubblici, che nella scorsa settimana erano esclusi. E le casse dello Stato hanno già stabilito quello che potrebbe prospettarsi come entrate, in base ovviamente alla tassazione, una tassazione che viene stimata attorno al 26% secca per tutti quelli che sceglieranno questo TFR. Le entrate potrebbero variare da 1,7 fino a 5,6 miliardi di euro se aderissero tutti i lavoratori. Ovviamente non sarà così, se mai ci sarà questo progetto che possano aderire tutti, ma la forbice è questa, da 1,7 a 5,6 miliardi di potenziali entrate. Oh, vi piace questa idea? Ne discuteremo alle 8:15, mentre sull'altra idea c'è il tema appunto della fiducia. La fiducia verrà messa oppure no? Questa pare l'intenzione di Renzi sulla riforma del lavoro, ovviamente, e racconta il Corriere della Sera, pagina 5, l'articolo 18 lacera i democratici. La maggioranza giura, il PD voterà compatto. La minoranza, con Cesare Damiano, insiste, il governo non ponga la fiducia, accetti il confronto. Insomma, in questa analisi a pagina 5 del Corriere della Sera c'è come si comporterà il Partito Democratico di fronte alla richiesta di fiducia. Repubblica mette due voci a confronto, Deborah Serracchiani, vice segretario del PD, e Landini, il leader, Maurizio Landini, il leader della Fiomma, pagina 4 di Repubblica. La Serracchiani dice: la sinistra Dem dirà sì sul lavoro. E poi questa frase nell'intervista di Umberto Rosso: senta, Serracchiani, se arriva il soccorso azzurro di Forza Italia a votare, porte aperte. Risponde Serracchiani: non ne faccio una questione di colore o politica. Se qualcuno prende atto che il Jobs Act è un passo avanti importante per il nostro paese, ben venga. Forza Italia, come il nuovo centrodestra o i grillini, addirittura apre ai grillini. Quindi se siete favorevoli, non facciamo una questione di colore. Mentre Maurizio Landini dice: il piano di Renzi è far passare la linea della riduzione dell'occupazione, dei diritti e del salario dei lavoratori. Se è così, deve sapere il governo che noi siamo pronti a occupare le fabbriche. Non possiamo accettare il licenziamento dei lavoratori e la riduzione del salario. È quello che ci stanno proponendo ed è questo che il governo ci sta chiedendo di accettare. È un modello che sta avanzando. L'abolizione dell'articolo 18 dell'attuale sistema contrattuale, con la possibilità di derogare al contratto nazionale, come prevede l'articolo 8 della cosiddetta legge Sacconi e come chiese la Fiat. Dice Landini: sta passando il modello Fiat e noi ci opporremo. Sta di fatto che però domani Renzi incontrerà i sindacati. Da mesi non succedeva e infatti, racconta il Corriere della Sera, pagina 6, c'è molta diffidenza tra i sindacati, che a ieri sera non avevano ancora ricevuto la convocazione ufficiale a Palazzo Chigi per l'incontro di domani col Presidente del Consiglio nella Sala Verde. E molti si chiedono all'interno dei sindacati: perché proprio ora? C'è il timore che si tratti, come racconta Antonella Baccaro nel suo articolo, solo di un accenno di dialogo, fatto magari in diretta streaming, in concomitanza col passaggio stretto dell'articolo 18 in Senato. Qualcuno paventa l'ipotesi di uno scambio tra l'abolizione dell'articolo e il tema della contrattazione. Insomma, c'è diffidenza, come racconta anche il leader del UIL, Luigi Angeletti, in un'intervista al Secolo XIX, a pagina 3. Intervistato da Alessandro Di Matteo, dice: la prima cosa è che non bisogna togliere nessuna tutela a coloro che ce l'hanno, compreso l'articolo 18, perché non c'è alcun motivo. E poi parla, dopo mesi di incomprensioni, di questo incontro di domani. Ammette: ci arrivano un po' divisi, i sindacati e col timore che Renzi cerchi più un'operazione mediatica che un vero confronto. Infatti Angeletti dice: mi auguro domani che non sia una sceneggiata quella dell'incontro con i sindacati, e staremo certamente a vedere anche questo. Mentre intanto il Messaggero racconta quella che è la manovra allo studio, che tra 10 giorni dovrà essere presentata all'Europa. Lo fa Andrea Bassi in un articolo a pagina 3. Manovra da 24 miliardi, tornano gli sconti prima casa. Mancano meno di 10 giorni, scrive il Messaggero, il conto alla rovescia per presentare alla Commissione Europea la legge di stabilità corre. Ma molti tasselli della manovra del governo ancora non sono stati messi a posto. Oggi probabilmente Renzi ne parlerà col ministro dell'economia Padoan. La manovra lorda potrebbe, scrive il Messaggero, lievitare ben oltre i 20 miliardi fin qui indicati da Renzi e potrebbe toccare i 23-24 miliardi di euro. Spunta, tra l'altro, l'ipotesi di reintrodurre a partire dal prossimo anno una detrazione fissa nazionale per la TASI, la nuova tassa sulla casa, sul modello di quanto avveniva con la vecchia IMU. In pratica una detrazione di 200 euro fissa più 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni con un tetto complessivo a 400 euro, una misura che costerebbe tra 1 miliardo e 2 miliardi di euro. Ah, spunterà questa detrazione, non resta che attendere questi 10 giorni, in questi giorni febbrili di composizione della manovra. Spunterà Mauro Meazza? Sì, Mauro Meazza sì, non è spunterà Mauro Meazza, era spunterà la detrazione, virgola. Mauro Meazza, buongiorno! Buongiorno, non sono mica frate indovino. Io vedo dal Sole 24 Ore che le detrazioni attualmente sulla TASI sono abbastanza complicate, però rimando al Sole 24 Ore di stamattina, dove abbiamo titolato il labirinto delle detrazioni, forse con un eufemismo. Meno 10, attenzione, cominciamo il conto alla rovescia per il pagamento, meno 10. Ma oggi non so perché mi viene da dirti che bisogna giocare in difesa, sì. Bisogna stare molto attenti alla difesa, e appunto con il Sole 24 Ore oggi l'inserto delle esperto risponde, c'è come difendersi dalle contestazioni sul modello unico sul 730. Cambiare l'allenatore magari. No, cosa c'entra con il modello unico? Non lo so. Non seguo. No, poi c'è anche una serie di articoli che spiegano la difesa dagli accertamenti dei comuni in caso di IMU, di ICI, tasse locali, insomma. Non parliamo ancora di difesa dalla TASI perché ancora dobbiamo capire come pagarla, poi vedremo se ci saranno contestazioni. E niente, in ultima analisi c'è molto altro, naturalmente sul Sole 24 Ore, così come speriamo ci sia molto altro nelle gambe e nella testa dei giocatori della mia squadra, dicevo alla fine era un retropensiero, non te lo tenevi dentro, non te lo tenevi. No, il dispiace, la lingua batte, eccetera, eccetera. No, volevo parlarti di una cosa, diciamo, motoristico di movimento, cioè la giungla degli sconti del trasporto pubblico. Morena Pivetti presenta oggi una analisi dei vari sconti, c'è una difformità negli sconti delle aziende di trasporto pubblico, dei tram, degli autobus, che è veramente sorprendente, cioè ogni comune fa un po' come gli pare. Diciamo che è una scontistica modello TASI, ecco, per far capire alla gente che ci sta ascoltando. Bene, perché dico questo? Perché è il momento della parola magica. Traffico! Oh. Alessandro Mila, il giornalista più titolato del mondo! Oh! No, perché iniziamo sempre alle 6:30 con l'inno della Juve, adesso io capisco. Vabbè. Te lo fanno un po' più bello però. Però vabbè, è comunque l'inno del Milan e quindi non si discute, è per fede. Allora, parla Laura Boldrini, carica numero 3 dello Stato, intervistata dal Corriere della Sera da Monica Guerzoni, l'intervista la trovate a pagina 3, parla un po' a tutto campo Laura Boldrini, meglio evitare i voti blindati, parla così della fiducia possibile sulla riforma del lavoro e poi dei partiti in crisi per il leaderismo. È un'intervista di analisi a 360 gradi. La parte più interessante è quella in cui critica la legge che ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Nel 2017, dice Laura Boldrini, quando i rubinetti si chiuderanno per i partiti, ogni partito politico si troverà costretto ad andare a caccia di gruppi di potere e di imprenditori che poi ti presenteranno il conto. Non sta a me decidere se va rivisto il finanziamento, ma dobbiamo essere consapevoli che stiamo andando verso un ulteriore depotenziamento della politica nei confronti della finanza e dell'impresa. La politica deve tornare centrale, perché se è forte detta le regole, se è debole le subisce. Questo Laura Boldrini. Poi risponde alla domanda sulla appunto l'articolo 18 e sulla riforma del lavoro. Dice la Presidente della Camera, se l'obiettivo è creare posti di lavoro, la discussione sull'articolo 18 non mi pare cruciale. Cruciale è la crescita che non c'è, sono i posti di lavoro che mancano. Il problema è crearli, non erodere le garanzie di chi un lavoro ancora ce l'ha. Invece di concentrarci sull'articolo 18 dovremmo avere più coraggio e spostare il focus su un modello di sviluppo alternativo. Così parla Laura Boldrini, intervistata dal Corriere della Sera. Tra l'altro, che ci sia la crisi e che la situazione sia difficile, il Sole 24 Ore lo segnala con un articolo che è poi l'apertura, che poi è sviluppato a pagina 3, ed è questo: la crisi spinge al rialzo i reati tributari. Cioè, osservando quelle che sono le procure italiane, vedendo l'aumento dei reati tributari, per esempio il mancato pagamento dell'IVA, si evince che evidentemente la crisi morde sempre di più. La crisi moltiplica le denunce per i reati fiscali quest'anno, scrive il Sole 24 Ore. Nelle procure arriverà quasi il 18% di segnalazioni in più rispetto al 2012 per mancati pagamenti dell'IVA, mentre sono destinati ad aumentare di quasi il 40% gli omessi versamenti di ritenute da parte dei lavoratori, dei datori di lavoro. In entrambi i casi si tratta di somme che le imprese hanno dichiarato al fisco che poi non hanno pagato, un comportamento che spesso si spiega con una cronica crisi di liquidità. Questa è una dei risultati della crisi. Verrebbe da dire, visto che i soldi sono pochi, perché uno se li fa fottere? Questo è il sunto dell'articolo che ho letto sul Corriere della Sera e che mi ha molto colpito. Fiorenza Sarzanini racconta un rapporto della Guardia di Finanza sui primi 9 mesi del 2014, quanti soldi gli italiani si sono fatti fregare dai cosiddetti Madoff. Madoff è quello che in America ha rubato, ha frodato milioni e milioni di euro. Ebbene, sapete quanti soldi, secondo la Guardia di Finanza, gli italiani si sono fatti fregare da sedicenti investitori, promotori finanziari che poi si sono rubati tutto? 400 milioni di euro truffati ai piccoli risparmiatori in 9 mesi. Racconta Fiorenza Sarzanini, hanno il volto rassicurante del funzionario di banca, del direttore dell'ufficio postale, del docente universitario. In realtà sono aguzzini dei piccoli risparmiatori. Eccolo qui il rapporto della Guardia di Finanza che ha individuato una ventina di Madoff italiani, e su molti altri sono in corso anche accertamenti. Il caso eclatante è Alberto Michalizzi, docente di economia aziendale alla Bocconi, che lo scorso anno è riuscito a far sparire 300 milioni di euro contando sulla disponibilità nel portafoglio clienti di alcune banche d'affari. In genere il più utilizzato è lo schema, cosiddetto schema Ponzi. Ha fatto scalpore per esempio nel giugno scorso la truffa del promotore finanziario calabrese Massimo Cedolia, che aveva avuto l'incarico di gestire il fondo alimentato con soldi dei fedeli raccolti al santuario di San Francesco di Paola. In realtà li ha usati per giocare in borsa. Nel dossier c'è anche Benvenuto Morandi, ex direttore della Banca Intesa San Paolo di Fiorano al Serio ed ex sindaco del comune Valbondione, arrestato il 9 maggio perché, abusando del doppio ruolo di direttore primo cittadino, è scritto nella relazione, ha sottratto 20 milioni di euro dai rapporti di condito riconducibili a diversi clienti e così via. Insomma, persone che riescono a frodare qua e là 400 milioni nei primi 9 mesi. Vabbè, Chiudo la politica con due notizie che mi hanno incuriosito. Salvini e la Lega si incontrano con Casa Pound e la Repubblica fa una pagina con Rodolfo Sala, il leader della Lega nella sede degli estremisti di destra, ma Salvini dice fanno più loro per la gente che Renzi. E poi il giornale Fabrizio De Feo racconta, udite udite, che Berlusconi sale in cattedra. Berlusconi sarà professore della libertà nell'Accademia di Alta Formazione Politica di Forza Italia, ideata da Marcello Fiori, che dovrebbe partire ai primi di novembre, al costo di 640 euro, IVA compresa, per 1500 ore di lezioni nell'arco di un anno. Berlusconi, professore, terrà lezioni di buon governo e comunicazione. Sul giornale. Allora, gli esteri, vi segnalo una storia molto intensa di Paolo Mastrolilli che racconta da Dallas sempre il timore per l'Ebola e soprattutto racconta la storia di un untore, probabile untore, scovato in Nigeria, l'uomo che infettava per vendetta. È la storia di Patrick Sawyer, primo malato morto di Ebola in Nigeria. Ora è stata riscritta la sua storia, probabilmente ha scoperto di essere stato tradito dalla moglie mentre era incinta della terza figlia, si è ricostruito lui una vita con l'amante, ma poi ha scoperto a sua volta di essere stato tradito e quindi quando gli hanno diagnosticato l'Ebola, racconta Paolo Mastrolilli sulla Stampa, è esploso di rabbia, ha rifiutato la diagnosi, già in ospedale ha urinato sugli infermieri, ha cercato di infettare tutti e secondo le ricerche di questa persona alla fine è andato col maggior numero di prostitute possibili per contagiare una serie di persone. Nigeria, l'untore di Ebola che infettava per vendetta. Purtroppo la storia di queste, il propagarsi di queste malattie è anche la storia a volte in questi casi di una persona del genere che ha deciso di infettare, una volta che le hanno scoperto la malattia, il maggior numero di persone possibili. E sempre sulla Stampa, tra l'altro, vi segnalo un articolo di Francesca Paci che racconta invece la situazione della Siria, dell'Iraq e dell'ISIS. È un'analisi molto interessante dall'Europa in Siria in cerca di un marito mujahideen. È la storia di oltre 100 donne scappate dall'Occidente, dal Belgio, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania, per andare a vivere in condizioni in cui, si dice, i diritti delle donne non sono certi garantiti come in Occidente, nelle zone dove c'è il controllo dello Stato islamico. Vabbè, tralascio l'ennesimo furto della Juve per venire alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Mezza pagina sul Corriere della Sera, non ci volevo credere, Elvira Serra. Dopo il movimento dei selfie arriva il movimento dei no selfie. Dagli USA al governo filippino, basta selfie, nascondiamoci, è nato l'anti-selfie movement. E il Corriere ne parla per mezza pagina. Questo è quanto. Si chiude. Ho finito. Scordatevi di me. Sayonara.